pronti via, che siamo leggermente in ritardo per questo Voltiamo Pagina di oggi, magico mercoledì 3 luglio 2024. Dovete sapere che ho ricevuto la settimana scorsa uno splendido, bellissimo regalo che presenterò quest'oggi in occasione del mio appena trascorso compleanno. Quindi gli anni passano, ma resta un grande motivo di emozione portato sui 103.1 per il Voltiamo Pagina, rubrica letteraria odierna. Tutto ciò e in tutti i sensi, in questo caso, grazie a Silvia Albertazzi. Buongiorno Silvia. Buongiorno Willy e grazie a te. Iniziamo di queste belle parole. Di queste belle parole. Che poi il nostro pubblico capirà a che cosa si riferisce. Che diventeranno fatti. Intanto do il buongiorno anche a Stefano, che come la famiglia Adams con doppia mano riporta e contraccambia il saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ricordo il 333-180-9494 per arricchire in maniera molto importante la vostra biblioteca. Ringrazio anche Libreria Ubic per la collaborazione, ma avrei piacere che i premi fossero ritirati questa sera dalle 18 alle 21 con Mini Express Open Deck dalle 18 alle 21 in via Fioravanti 68 a cura di Binario 69. Iniziamo la playlist letteraria, ti sei occupata anche di playlist musicale, ma iniziamo con il volume che hai di fronte a te. Di che si tratta, Silvia? Dunque, si tratta di un bel romanzone storico. Chiamato Le ragazze della baleine di un'autrice francese, Julien Mally, edito da Mondadori. Dunque, è la storia vera, almeno si ispira a un fatto realmente accaduto, di 90 giovani donne che furono imbarcate da Parigi alle colonie della Louisiana francese, della Louisiana, all'inizio del Settecento, per ripopolarle, perché dunque nelle colonie c'erano andati soltanto degli uomini e avevano bisogno di donne e di vere donne francesi, diciamo, per continuare appunto la discendenza. E queste ragazze da dove venivano prese? Dalla Salpêtrière, che era questa sorta di enorme prigione all'interno della città, questa istituzione veramente carceraria in cui venivano rinchiuse donne che avevano commesso dei crimini e donne ritenute malate di mente, perché poi magari non lo erano, sia soprattutto ragazze abbandonate, orfane, persone che le famiglie avevano rigettato perché non avevano comportamenti consoni con le regole della società. Ecco, queste povere donne che già vivevano in una condizione estremamente disagiata, irrigimentate in questa tremenda istituzione che era la Salpêtrière, tra queste donne, l'istituzione gestita da suore, da monache, tra queste donne, che erano tante perché la Salpêtrière era una città dentro la città, vengono scelte 90 ragazze che devono andare in Louisiana a questo scopo, questo unico scopo di incontrare i mariti scelti per loro e dare loro dei figli. Ecco, il destino è tremendo, sì, però queste stanno talmente male alla Salpêtrière che aspirano piuttosto che all'inizio del romanzo noi vediamo la madre superiora che invece sa che cosa le attende e quindi non sa, ha questo tremendo compito di sceglierne alcune che probabilmente andranno a fare una vita ancora più disgraziata di quella che stanno facendo adesso. E il romanzo segue la scelta della madre superiora, poi soprattutto però il viaggio tremendo che dura 6 mesi, da Marsiglia, mi sembra, fino alla Louisiana, durante il quale le ragazze non possono salire sopra coperta, devono sempre stare sotto coperta, chiuse. Sì, perché i marinai non le devono vedere, non ci devono essere contatti con i marinai che potrebbero portare a situazioni ben più disdicevoli. Tra l'altro durante il viaggio c'è anche un attacco di pirati, quindi Dopodiché le poverine arrivano su un'isola del tutto abbandonata e da cui dovrebbero venirle a prendere delle piroghe che le porteranno finalmente alle loro destinazioni. Ora, queste qui sono anche fortunate che le vanno a prendere subito. L'anno precedente, quelle che erano state mandate l'anno precedente, sono per lo più morte su quest'isola perché si erano scordati di andarle a prendere, o perché non avevano il clima, non era favorevole, e conseguentemente non potevano muoversi le barche. Una volta arrivate, hanno naturalmente tutte le sorprese del caso. Chi le sposa? Possono essere persone buone, in linea di massima chi è andato a popolare la colonia non è propriamente ricco, chiaramente. Ci può essere qualcuno che ha fatto fortuna, ma ci può essere anche qualcuno che è violento. L'incognita più totale, con non dei buoni presupposti. Dalle tue parole per un attimo ho viaggiato con la mente. La navigazione, la figura di queste donne recluse, mi sono venuti a mente, tornando indietro e molto, nelle narrazioni del mito greco. Sembra una parte delle Metamorfosi di Ovidio, ma siamo molto più avanti. Siamo nell'inizio del Settecento. Siamo molto più avanti, ma l'idea di una trasposizione nel mito greco e nella tragedia c'è. Come, per quanto riguarda queste vestali? Che... Noi seguiamo soprattutto le sorti di quattro ragazze. Una, Etiennette, riesce in qualche modo a sistemarsi bene e quindi diventa anche abbastanza altezzosa nei confronti delle altre, cambia anche atteggiamento. Le altre tre, che sono quelle, le protagoniste più importanti, diciamo, del romanzo, hanno vicende molto diverse. C'è la protagonista numero uno, diciamo, è Geneviève, che è stata condannata, mandata alla Salpêtrière, semplicemente perché ha aiutato alcune donne, alcune ragazze che, prive di mezzi, ad abortire. E questa è la cosa più grave che avesse mai potuto fare. Si potesse immaginare. Condannata quindi adesso a fare figli. E quindi, oltre a essere condannata a fare figli, ma soprattutto è vista proprio come una strega. Sì. Si porta dietro una nomea micidiale, anche fra le sue compagne. E poi c'è Petronille. Petronille è una ragazza di buona famiglia, ricca anzi, che è stata ripudiata dalla sua famiglia perché la considerava un po' strana, diciamo. Aveva dei comportamenti un po' strani, non in linea con la società. Cioè. Per di più aveva anche una voglia sul viso, una voglia bianca sul viso che sembrava marchiarla. E per finire c'è... Bastava questo per rendervi conto. Infatti. E per finire c'è Charlotte, che è una bambina di 12 anni. Una bambina che è stata abbandonata sulla soglia della Salpêtrière, quindi che non sa chi sono i suoi genitori. Chiaramente è stata cresciuta dalle suore e che chiede lei stessa di andare nella colonia, pensando che questo le apra un futuro. Di libertà. Di libertà. In realtà vedremo poi che ognuna di loro, le loro strade per un certo periodo divergono, perché ci sono tante destinazioni all'interno della Louisiana, sul Mississippi, dove possono arrivare. E vedremo che è per poi ritrovarsi alla fine alla Nuova Orléans, come viene chiamata nel libro, e dove il problema è sempre quello: la donna non ha possibilità di indipendenza, quindi queste povere donne spesso e volentieri rimangono vedove giovanissime, perché i mariti lavorano sul mare, quindi devono lottare contro gli elementi e spesso ne vengono sconfitti, e quindi magari sono costrette a, come nel caso di Geneviève, a un matrimonio dietro l'altro successivo, con personaggi sempre meno attendibili, diciamo, perché è l'unico modo per loro per avere una dignità. E perché in fin dei conti a loro viene continuamente ricordato che sono lì per fare figli. Sì. Non possono starsene lì da sole. E quindi devono stare in coppia, per forza. E anche perché non c'è possibilità di lavorare, di guadagnare per una donna. Quindi o muoiono di fame o si risposano. O si adattano in questo modo. Tremendo, È tremendo, sì. Ecco, questa è la storia, grosso modo, del libro, che si ispira ovviamente a un fatto vero, veramente. Sì, è una storia vera, ecco. Non sono vere, romanzata, non certo. Sono vere Charlotte, Tiennette e compagnia, però è la si ispira a un fatto vero. Infatti poi ci sono 3 pagine di riferimenti bibliografici e storici alla fine del libro. E la cosa interessante di questo lavoro è che sono situazioni tragiche, però non stai leggendo un drammone. Ah. Cioè, non, tu le cose dure le capisci tra le righe, insomma. Ma questa non è una grande capacità, sì, dell'autrice. Sì. Non è che si dilunghi sul dramma, sulla tragedia, sul pestaggio, che ne so, o robe del genere. È un libro che si legge, guarda. È piuttosto grosso. È abbastanza importante per le tue abitudini. Infatti, e devo dirti la verità, fino a sabato io avevo già un discorsino pronto che era: mi dispiace, ma per la prima volta in 3 anni non sono riuscita a fare i compiti. Quindi avrei portato qualcos'altro. Mentre invece durante il weekend sono andata avanti, ero molto indietro, sono andata avanti e non riuscivo più a fermarmi. Beh, bello, questo è un bel complimento che fai al lavoro. Sì, direi che questo è un lavoro bellissimo per l'estate. E direi che è in palio anche. Sì, lo metto in palio. Tramite quiz al 3331809494. Iniziamo con un brano di Aretha Franklin che è molto attinente. Io l'ho messo perché veramente... come segno di... queste donne poi... chiedono, che cosa chiedono a un certo punto? Chiedono rispetto. Just a little bit. l'altro in colonna sonora nel mitico film dei Blues Brothers, Respect, questo brano che stiamo ancora ascoltando e che sta sfumando sotto la mia voce. Ben più importante la voce di Aretha Franklin e il contenuto dal titolo Respect. Titolo, autrice, casa editrice, per il lavoro che hai dato inizio con il Voltiamo Pagina odierno. Sì, allora, titolo Le ragazze della Baleine. La Baleine è la nave che le porta in Louisiana. E l'autrice si chiama Julia Malì e, aggiungo, la cosa mi ha veramente colpito, è nata nel 1994, quindi è giovanissima, pare che abbia già scritto 4 romanzi, di cui io non so nulla e non ci dice buona nulla. Fortuna. Non ci dice nulla nemmeno Mondadori, che è l'editore, e, però questo veramente è bello. Vorrei aggiungere il valore di questo romanzo, valore storico ma anche letterario, è aumentato da una magnifica traduzione, e qui vorrei citare la traduttrice, che è Elena Cappellini, è la traduttrice di Lemaître. Sì. Ed è anche una ragazza che, vabbè, non la cito per questo, ma è una ragazza che ha fatto il nostro dottorato a Bologna, molto in gamba, una allieva di Cesarani, che veramente come traduttrice dal francese è una delle migliori che ci siano adesso su Piazza, se non la migliore. E infatti lavora per Mondadori, casa editrice che pubblica poi Lemaître. E infatti lei è la traduttrice di Lemaître. Dal francese, per cui insomma un lavoro che dà valore aggiunto già al contenuto delle pagine appena presentate. Ci sarà il quiz per avere valore anche a quello che in concreto vogliamo portare per voi, ascoltatrici e ascoltatori dei 103.1. Allora, qualche domanda, una in particolare. È per tutte e per tutti, cioè un libro trasversale? Insomma. È un libro assolutamente facile da leggere, diciamo. Ti dicevo prima, un libro molto appassionante, per cui uno, una volta che lo inizia, poi ha voglia di scoprire cosa succede a queste persone che vanno incontro a tanti guai e a tante avventure. Quindi non è solo romanzo storico, ma è anche un romanzo d'avventure, se vogliamo, al femminile, il che è abbastanza unico. Fate tesoro di queste parole che caricano di entusiasmo non solo la nostra prof, che come ben sapete, e giustamente anche ognuno ha le sue modalità di presentazione, però in questo caso non perdete la possibilità per quanto riguarda il quiz, ma non solo, anche per la playlist letteraria che ogni mercoledì vi portiamo. Potete recuperare anche dei titoli che abbiamo presentato nelle puntate precedenti, magari qualcosa per motivo di conversazione, per il convivio al Comini Express, non solo musicale ma anche letterario. Avremo modo di portare altri titoli per la serata odierna. Sono generoso oggi, sono in vena di regali, insomma. Allora, diamo voce al quiz per quanto riguarda questo primo libro. A te la parola, Silvia. Dunque, è un quiz molto pop, se vogliamo, molto molto easy listening. Sì, diverso, il romanzo è abbastanza tosto, se vogliamo, il quiz è proprio terra terra. Cioè, abbiamo detto che le nostre protagoniste si ritrovano a Nuova Orleans, come viene chiamata nel libro. Ora, tanti anni fa, un famoso cantante italiano dedicò una canzone a questa città. Io voglio sapere il titolo esatto della canzone e il nome del cantante. Il titolo esatto della canzone e il nome del cantante, appunto, che ha dedicato il brano a questa città importantissima della Louisiana, New Orleans. E detto ciò, io direi di lasciare invece voce a chi ha dato una dedica a un nome femminile molto particolare, perché in italiano è un pochettino così, no? È una genoveffa, sì. Mentre invece in francese Geneviève ha tutto un altro. Un altro ascolto, un'altra musicalità. Lui è Giorgio Gaber. Sì, e Geneviève è la protagonista del libro. A tra poco con, ricordo, è 333-180-9494 la possibilità di arricchire la vostra biblioteca, titolo delle canzone e l'autore appunto di questo brano dedicato a New Orleans. A tra poco, buon ascolto. Eri ancora l'amore, Geneviève, solo allora. lieve, tutto in te ricordava il profumo dei fiori. Tu sei partita, fuggita via da me, i tuoi baci non avrò mai più. Tua bocca mai più dimenticherò, perché tu non sei più il mio amore. Geneviève, dove mai troverò felicità? Giovani disponibili per donne senza età, giovani divisibili, c'è chi ci sta e chi non ci sta, giovani capelli al vento, ma quale vento dentro al bar? Chi dice che non è vero, che fumare fa male, che domani sarà bello, possiamo andare al mare. Da, intanto Figaro si taglia i capelli e si consiglia tagli corti e la ginnastica correttiva per non crescere storti. In mano guida alla seduzione, profumi sempre più forti. Le nostre donne stanno qui, ma non ci piacciono tanto, ce ne vorrebbero altre con qualcosa in più. Come caramelle, tu ci scherzi ma se guardi bene vedi che sono più di mille. Hanno il coraggio di ondeggiare e sedere come se fossero loro le stelle. E andiamo avanti così, colpiti da un come va, da un Dio che si frega la tranquillità. Siamo nati per aspettare che qualcosa si muova e che ci venga a cercare. Magari un'altra guerra mondiale o una stronzata geniale. Ma va bene così, o meglio siamo già qui. Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. E intanto Dustin Hoffman sbaglia un film. E intanto Dustin Hoffman sbaglia un film. E Già gli anni Ottanta per me sono stati un vero supplizio, perdonate questa divagazione, questa è playlist a mia cura, eh. Lui è un tutti i tempi che non presento perché me lo direte voi e non solo, mi direte anche altro a tal proposito, perché ovviamente per condividere con voi il regalo che ho ricevuto, chiedo un certo impegno, E nel 1984, figuriamoci, non trovavo nella musica degli anni Ottanta consolazione, figuriamoci poi musica italiana, uscì questo lavoro che per me è stato una rivelazione per i contenuti, per l'analisi, per l'ironia, l'aspetto anche critico nella sua facilità d'ascolto. Giovanissimo questo autore ha esordito con il lavoro che stiamo ascoltando. Intanto vi dico il titolo del brano, che è Giovani disponibili, è tratto da Me lo direte voi, l'autore Me lo direte voi, 333-180-9494. Sono strano, perché ho trovato tanta poesia e l'ho voluto portare. Spero che non si offenda chi mi ha portato questo regalo a colonna sonora della sua raccolta ultima di poesie. Mio padre somigliava a Dustin Hoffman. Autrice Silvia Albertazzi. Grazie Silvia. Grazie a te e non mi offendo per niente. Ok, meno male. Meno male, sospirone di sollievo. Aggiungo che ogni tanto, quando ho scelto questo titolo, mi veniva in mente il titolo di questo. Dai! Sì. Quindi involontariamente. Però è verissimo che mio padre somigliava a Dustin Hoffman. Ed è una figura riportata in questo lavoro di cui leggeremo alcune poesie. Al momento della consegna, oltre all'emozione nel riceverlo, io sono un grandissimo ammiratore di Silvia Albertazzi, sono sincero, anche se ha una presentazione, l'ho definita, che al momento della distribuzione della simpatia lei era assente o aveva saltato la fila. No, hai detto addirittura che ero in bagno. Sì, è molto più esplicito, ho anche dato una motivazione, ecco... è stato un commento così fuori luogo, se vogliamo, ma ha scatenato l'ilarità generale. Quindi, però, detto questo, certamente la fila l'ha fatta anche doppia e tripla per quanto riguarda la sensibilità poetica. E conoscere, entrare in queste parole, come mi ha portato il regalo di Silvia, che ha detto tanto lo leggi in mezz'ora. No, ci vuole una vita. Vi posso assicurare che ci vuole una vita, perché lo leggerete, lo rileggerete. Vi consiglio sempre e comunque di tenere vicino a voi in ogni momento di quotidianità, come io faccio, una raccolta di poesie, perché sono indispensabili soprattutto di questi tempi. Certo, la figura protagonista all'interno di una vita, come ha dato voce Silvia in questa raccolta poetica, sì, è incentrata, ma io direi proprio che è quanto mai estesa a una vita, a stagioni, a momenti, a quello che è poi nella vita il motivo di crescita e di riflessione, che a questo punto riguarda tutte e tutti. Però torniamo al titolo, per far conversazione di presentazione con mio padre somigliava a Dustin Hoffman, perché a un certo punto, Silvia, nella tua narrazione, nella tua scrittura, hai sentito il bisogno di portare questo protagonista. Non lo so. Cioè, bene. Perché si arriva a un punto quando sei un po' grande, diciamo, che sei orfano, che i genitori non li hai più e ti vengono in mente, quando ricordi il passato, ti vengono in mente delle cose che li riguardano. Ora, nel mio caso, mio padre è stato molto importante per me, anche se spesso e volentieri avevamo degli attriti. Però devo dire che tutto quello che riguarda, per esempio, l'amore per la letteratura, per la lettura, eccetera, lo devo a lui. E quindi devi tanto, Silvia. Sì. E poi mio padre era una strana persona, insomma, cioè poteva essere delizioso e poteva essere insopportabile. E aveva questa particolarità, che somigliava a Dustin Hoffman. E quindi abbiamo voluto portare nel titolo, ed è giusto anche il titolo, sai, perché da queste parole è facile cadere in un tranello. Ah, ok, quindi sarà una dedica, ci saranno percorsi. No, c'è una ci sono delle vite, no? È qualcosa che si lascia questa figura sempre presente, ma nelle stagioni, nella letteratura, nella musica, tutto sì, ampiamente citato. C'è da dire che sì, il titolo ho fatto come... come Carboni, insomma, il titolo l'ho preso da una poesia, però non è che tutte le poesie riguardino mio padre, anzi. No, infatti, e questo per me c'è un però po'. C'è, senza hai dubbio capito? C'è. È quello che mi ha fatto veramente meravigliare, del resto comunque io certo ho l'entusiasmo come mi appartiene, quando qualcosa mi piace non lesino certo in complimenti, ma sono tutti assolutamente sinceri. Io ho conosciuto Silvia con una raccolta di poesie bellissima. Tengo tutti i tuoi lavori nello scomparto Albertazzi, lo trovo subito perché sei la prima. Beh, è la lettera A. Capito? E quindi con Magenta e il colore dei ricordi, che è stato il lavoro che abbiamo portato a conoscenza e abbiamo iniziato la collaborazione con il Voltiamo Pagina, insomma. Volevo anche aggiungere, certo, una sorta di immediatezza che immediatezza non è assolutamente, perché ti porta a pensare, riflettere, ripensare, e poi oltretutto io ho un vantaggio, ti conosco. ciò non toglie che è un buon motivo per conoscerci ulteriormente. A tal proposito, scrivere questo lavoro, hai conosciuto ulteriormente tuo padre? Non lo so, ho ripescato certe cose che me lo ricordano, diciamo, più che conoscerlo ulteriormente. Vedi, in mio padre c'era una zona d'ombra che lui non ha mai scalfito più di tanto, che era il momento in cui, i lunghi anni in cui è stato prigioniero in Germania. Lui era una di quelle persone che non parlavano del suo trauma di guerra. Per cui questo lo rendeva abbastanza affascinante, nel senso che tu sapevi che c'era qualche cosa di lui che non ti avrebbe mai detto e che era tremendo. E in queste poesie c'è? L'hai portato questo sentimento? Sei riuscito a tradurlo in parole? Perché come abbiamo analizzato in precedenza, anche quando non c'è, c'è. Per cui anche certi aspetti, anche quando non ci sono, ci sono. Ma non erano poesie che volevano essere dedicate a lui. Poi mi piaceva questo verso in particolare, mi piaceva il fatto che in effetti era così. Ti dico solo un aneddoto. Quando uscì il film Alfredo Alfredo di Germi, sì? Al tempo era a quello che allora era il modernissimo, e al tempo si mettevano fuori le foto, i fermo immagine dal film, no? Sì. E c'erano tante foto di Dustin Hoffman, ovviamente, che era il protagonista. Qualcuno, forse mi ricordo un amico dei miei fratelli, che erano più piccoli di me, quindi erano dei ragazzini, venne da me e mi disse: ma perché hanno messo le foto di tuo babbo fuori dal cinema? Beh, tu ne sei stata anche onorata probabilmente. Sì, certo. Di questo. Credo che anche lui sia onorato di tutto ciò, insomma. E allora, intanto dico che mio padre somigliava a Dustin Hoffman di Silvia Albertazzi. Casa editrice non è Pagina 1. No, è La Vita Felice. È una casa editrice specializzata in poesie. È quella di Magenta. Ah, esatto, riportavo anche come somiglianza tra le copertine, che faranno bella mostra di sé, sai, quando i volumi si somigliano, si riportano allo stesso modo, fianco a fianco. Ti per prego di notare la bimba com'è bellina, sulla copertina. Allora, risposta esatta. Federico, io ti aspetto questa sera, ma ringrazio Luigi, ringrazio Dino, hanno scritto in tantissimi, per cui per la consegna Comini Express dalle 18 alle 21, Federico, avrò modo di consegnarti. Hai risposto esattamente. Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film di Luca Carboni. E il lavoro presso la Comini Express dalle 18 alle 21, se non ci sei, ma io mi auguro di riconoscerti e di ritrovarti, avrai modo di ritirarlo nei prossimi giorni alla libreria Ubic. E volevo dire un'altra cosa che non c'entra col mio libro. Non hai detto chi vince Le ragazze della balena. Perché sono un po' in difficoltà, ma adesso facciamo anche questo passaggio prima dello stacco musicale. Allora, Sabina ha risposto esattamente, ma in parte, ha risposto subito Adriano Celentano, l'autore, ed è giusto. Ed è giusto. Ci dici il titolo anche, Sabina? Se no, avremo purtroppo modo di consegnare il libro al pluripremiato Dino, che ha scritto sia il titolo della canzone, sia Adriano Celentano che ne è l'autore. Per cui, Sabina, aspettiamo anche il titolo di questa canzone, che appunto trovava motivo di attinenza con il libro presentato dalla nostra Silvia Albertazzi. Ok, Sabina, ha scritto subito, ti aspetto questa sera. I vincitori sono Sabina e Federico. Sabina per il libro presentato da Silvia, e Federico avrà modo di leggere queste stupende poesie di Silvia Albertazzi. Quanti libri di poesia hai già portato, Silvia? 4. 4. Poker. Sabina ha scritto, potrei anche cantare il jingle e ballare su questa canzone. Contenta poi, lei. Beh, intanto vuol dire che è conosciuta e che ne ha avuto modo con attenzione di ascoltarla. Mi pare sia Gianluca, che per me è un vincitore morale. Davvero una bella rubrica questa del mercoledì. Non sono un grande lettore, ma il voltiamo pagina mi spinge a leggere, e concordo con quanto sta dicendo Silvia. Luca Carboni ha accompagnato tutta la mia infanzia e adolescenza attraverso mia madre, e scusate, mi hanno cancellato il messaggino in un momento molto importante. Era la musica, il nostro unico linguaggio comune. Ciao. Che bello. Grazie, molto bello, molto bello. Grazie Gianluca, sarai premiato in ogni modo, se ti troviamo questa sera. Senti, vogliamo leggerne una? Sì. Leggila tu. La leggo io? Sì. Abbey Road. Era l'autunno del 69. Ballavamo something alle feste. Cercavamo qualcosa di importante negli sguardi, nei gesti, anche nei sogni. Mio padre somigliava a Dustin Hoffman. Mia madre a una casalinga quieta. Riascolto il disco 50 anni dopo. Ho cambiato pelle 1000 volte. La musica è rimasta sempre uguale. Ho attraversato centinaia di stagioni. È ancora ottobre. Io rinasco ancora. E certo, ancora qualcosa, something, come allora. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Piccolo Enrico è piaciuta molto questa poesia, ha persino applaudito. I io avevo selezionato la parte finale, che per me è meravigliosa, de I professori avevano 30 anni. Cantava Jacques il Belga che ci vuole talento in abbondanza a essere vecchi, senza mai diventare proprio adulti. E vorrei restare, a dispetto dello specchio, quello che ero ai tempi della scuola. E spero solo che nessuna di me dica: sono invecchiata per colpa della prof. Non credo che nessuna o nessuno lo dica mai. Quindi, allora, io porto, penso, più libri che dischi questa sera, e nonostante la pioggia avremo modo di leggere assieme. I due vincitori, Sabina e Federico, li aspetto al Comini Express in via Fioravanti 68, e ovviamente tutte e tutti per trovare motivo, oltre che d'ascolto, speriamo, nonostante la pioggia, ma anche di una buonissima lettura. E a tale proposito, mio padre somigliava a Dustin Hoffman, Silvia Albertazzi. Oh, grazie Silvia, che bello regalo che mi hai che mi hai portato. Noi siamo giunti al termine, però riusciamo a leggerne un'altra piccolina? La vuoi leggere tu in questo caso? Sì, dai. Adesso la devo cercare, ma faccio, ecco, questa, io sono affezionata a questa perché è il mio autoritratto. Si intitola Chi va, chi resta. Io sono quella che non va mai via, mai tutta intera, intendo. Sempre c'è qualcosa che rimane. Una mano e non so più abbracciare, un piede e comincio a zoppicare, un occhio resta a guardare verso casa, un orecchio ad ascoltarne i suoni, da una scarpa spuntano radici, inciampo e cado quando cerco di strapparle. Io sono quella che non è mai qui, tu mi parli e sono già lontana, non cercare di raggiungermi, non puoi. Sono persa sul canale, in quella foto dove nuvole grigie si inabissano oscurando il pomeriggio londinese. Here comes the sun, here comes the sun. E che sia di buon auspicio anche il brano in chiusura che stiamo mettendo, che ascolteremo per pochi minuti. Grazie a tutte, grazie a tutti per l'attenzione, per l'ascolto. L'appuntamento con il Breakfast Club è domani alle ore 7, doppio appuntamento in mostra. E di Pan Enciclopedico a seguire Liberi Dentro, poi rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Silvia, noi ci sentiamo e ci vediamo mercoledì prossimo. Senza dubbio. A questo punto. Va bene. A domani per quanto riguarda le super mattiniere e i super mattinieri con il Breakfast Club. A tutte e a tutti una buona giornata. Grazie Silvia, ciao. Grazie a te e a tutti. Colore colori che ci hanno ascoltato. Bellissimo. Tu sei una poetessa per me, ricordatelo. Quindi...